Kellogg. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Questo è l'incidente a presa diretta del signor Alex Risso, che è un ciclista dilettante di Varese, che ha una telecamerina sul manubrio della sua bicicletta e quando un'automobile gli ha tagliato la strada, l'ha travolto, ha avuto fratture esposte in più punti sulla gamba, è stato portato all'ospedale, ha avuto una lunga degenza, poi ha trovato anche, incidente avvenuto a luglio, il paradosso di essere stato multato perché non aveva il campanello sulla bicicletta. Il regolamento è questo, deve avere il campanello, però la signora gli ha tagliato la strada, ha detto messo la freccia, però l'ha travolto, lui è finito sotto la bicicletta e ha avuto questo tipo di incidente. Ma c'è qualcosa che non funziona. Noi abbiamo spesso fatto trasmissioni su bici e biciclette, sul rapporto fra ciclisti e automobilisti, sulla difficoltà di impossessarsi pedalando le nostre città, che è una sensazione meravigliosa, ma non sempre è facile. E domenica c'è stato un appello del sindaco di Milano Pisapia ai ciclisti di rispettare le leggi, rispettare le regole, perché era successo il giorno prima un incidente tragico in via Crema a Milano, dove un ciclista di 18 anni pedalava lungo un marciapiede, ha dato una spallata, ma per sbaglio, assolutamente non volendo, una signora di 88 anni. A quell'età cadere può essere traumatico, infatti la signora è caduta e è morta. Quindi il sindaco Pisapia dice ai ciclisti: rispettate le regole, perché il fatto che andate in bicicletta richiede che voi rispettiate alcune regole. Naturalmente questo apre nuovamente la discussione. Una parte c'è la atteggiamento del sindaco di Milano, che chiede ai ciclisti di non essere fondamentalisti, di non pensare che esista il mondo diviso in una manichea definizione di esseri umani crudeli, irrispettosi dell'ambiente soltanto perché inquinano e guidano automobili rumorose, e dei puri spiriti eccelsi che sono i ciclisti, che proprio per il fatto di non occupare spazio, non occupare l'aria altrui e non infastidire il mondo con il rumore del proprio mezzo di trasporto, però in realtà si sentono in dovere di non avere nessuna regola. Ma è vero, anch'io quando mi capita di girare in bicicletta per le strade di Roma si è talmente distinto, sottoposti a continuo stress, vuoi per i sanpietrini, vuoi per gli automobilisti che non ti vedono, vuoi per l'atteggiamento generale che considera un peso alla circolazione una persona che pedala e quindi non ha la velocità e lo scatto di un mezzo a motore, che molte volte ti capita di attraversare un passaggio pedonale quando non vedi che non ci sono macchine, di andare contromano lungo una strada o di camminare anche lungo un marciapiede. Accade. Beh, qual è il vostro punto di vista? Qual è la giusta misura? Servono leggi, servono regolamenti, serve educazione stradale, servono piste adeguate alle biciclette in tutte le città così non c'è problema? Qual è il nuovo passaggio nell'annosa e sembra eterna battaglia fra automobilisti e ciclisti? 800 24 0024. Un'auto automobilista ubriaco alla guida ha investito e ucciso un ciclista, ne ha investiti altri tre, poi ha proseguito la sua corsa, infine è stato arrestato dai carabinieri. Una volta sottoposto all'etilotest è risultato positivo. L'incidente questa mattina, la macchina l'uomo ha perso il controllo della Mercedes dopo una curva sulla statale 18 in località Marinella, Santa Eufemia di Lamezia Terme, e ha quindi travolto il gruppo di ciclisti. Erano in 10, 7 sono morti sul colpo, altri 3 sono rimasti gravemente feriti, 4 si sono salvati perché erano tornati a casa prima di trovarsi lì in quel momento, tutti facevano parte di un gruppo sportivo di San Biase, uno dei 3 quartieri di Lamezia Terme. 800 24 0024, ero sicuro, i ciclisti fanno parte cospicua del pubblico di quest'ora della radio, mi scrivono già degli sms, sono ciclisti, i ciclisti devono rispettare le regole dell'auto e i pedoni per legge. Il ciclista si mette a rompersi le gambe, così impara ad andare in giro e rispettare il codice della strada come tutti quanti. Beh, in questo caso il signore di Varese andava tranquillamente per la sua strada, era totalmente rispettoso. Non aveva solo il campanello la bicicletta, probabilmente, perché oggi le biciclette non hanno più campanelli, le biciclette sono attrezzate diversamente. Franco, buongiorno. Ah, buongiorno, io parlo da Cagliari. A me è successo questo con un ciclista. Io in macchina arrivo a un incrocio col semaforo, c'ho il verde, però contemporaneamente poi devo girare e anche i pedoni hanno il verde dall'altra parte, quindi io mi fermo, lascio passare i pedoni, però a un certo punto arriva un ciclista sulle strisce pedonali e io non mi fermo, non lo lascio passare e apro il finestrino. Ma questo perché? Per cattiveria? Perché No, ma lui non è mica un pedone. Sì, ho capito. È un ciclista sulle strisce pedonali. Non vale la pena di ammazzare una persona solo no, perché... No, mi sono fermato a fianco. No. Ah, gli ha avuto gli ha sottolineato che non poteva passare, ecco. No, sono stato io che gli ho impedito, perché io avevo la precedenza, perché avevo il verde e lui non è un pedone. Però mi ha detto, dice, ma io ho il verde. Ho detto, scusa, hai il verde, ma tu non sei un pedone, sei un ciclista. Doveva scendere e spingere la bicicletta a mano come un pedone, allora. Certo. In quel caso l'avrebbe fatto passare. Sì, a piedi, certo, sarebbe stato un pedone, ma in questo caso era un ciclista. Bastava scendere. Quindi ha dato una lezione al ciclista, però c'è un po' di acrimonia lei verso i ciclisti, oppure quello in particolare? Ne combinano di tutti i colori, perché sui marciapiedi non si può più andare, questi vanno da tutte le parti. Questo a Cagliari? A Cagliari, sì, a me un giorno mi è capitato. Ma è in salita la Cagliari comunque? Come? È anche in salita Cagliari, vanno solo diciamo lungo il mare. Parecchio, sì. Però a me è successo questo, per esempio un giorno sotto i portici arriva un ciclista e fortunatamente c'erano due vigili, che io gli dico guardi, questo ciclista, lo fermano e dice deve andare sulla carreggiata. Questo tranquillamente li guarda e se ne va e continua tranquillamente sul marciapiede. Quelli cercano, ma cosa può fare il vigile a piedi? Non può fare nulla, perché quello, il ciclista è più veloce, se ne va e ha continuato tranquillamente ad andare in mezzo alla gente. Insomma, quindi diciamo lei rappresenta diciamo con la categoria di automobilisti, considera arrogante il ciclista perché come se una persona che avesse una sua investitura proprio perché non inquina, non occupa spazio, quindi deve essere lasciato in pace. Piercarlo, buongiorno. Sì, buongiorno. Niente, io volevo semplicemente allinearmi più o meno a quello che... Quindi lei è dalla parte degli autisti, mi sembra aver capito. Ma io sono per lavoro in macchina, onestamente, per tanti chilometri al giorno, moltiplicati anno. Devo dire, che, come sempre, che è una questione di educazione. Evidentemente non sono tutti, diciamo, allineati o raggruppabili in quella, come dire, di quelli più... irrispettosi delle regole, però onestamente il ciclista e io metterei anche il motociclista, soprattutto poi quando sono a gruppi, sono pericolosi, cioè superano a destra, a sinistra, non si fermano i semafori, cioè noi che siamo in giro onestamente con la macchina non bastano due occhi, guardare a destra e a sinistra. Io proporrei la targa anche alle biciclette. Sì, lo stanno scrivendo molti, targa per le bici sulle superstrade, con perdita di punti. Perdita di punti se patentati. Il rischio per tirata della strada è altissimo e onestamente, ma io parlo personalmente, cioè non sono certo quello che... Sì, sto pensando al ciclista a cui tolgono i punti e la patente, gli tolgono la patente per la bicicletta e non può andare nemmeno in bicicletta, va con i pattini a rotelle, con lo skateboard, comunque queste sono proposte. Sentiamo l'altro versante, che sennò sarebbe parziale questo punto di vista. Daniele Iari, buongiorno. Buongiorno a tutti quanti. Daniele Iari ha fondato il Libero Ateneo del Ciclismo Urbano, l'ACU, è un attivista del movimento Salva Ciclisti di Roma. Roma è una città molto particolare per i ciclisti, vero? Estremamente. Sì, c'è un sindaco che si spaccia per ciclista, però in realtà è l'antitesi di ogni possibilità di andare in bicicletta, o mi sbaglio? Esattamente. Nicoletti, io sentendo questa trasmissione e anche le opinioni dei due ascoltatori in precedenza, non faccio altro che notare una cosa, che poi nelle sue parole è emersa. Manca un quadro normativo chiaro. C'è una proposta di legge in Senato, è stata presentata pochi giorni fa, proprio per una riforma del codice della strada, perché è evidente che ci sono delle aree di conflittualità fra i ciclisti e gli automobilisti. Queste nascono da un problema storico, cioè l'Italia è il paese europeo con la più alta densità di automobili pro capite, circa 70 su 100 contro una media europea di 40 su 100. Quindi c'è una disabitudine del ciclista nell'affrontare le strade, delle infrastrutture stradali non adeguate a chi va in bicicletta, e c'è un automobilista che non è in grado ancora di percepire la presenza di ciclisti sempre più numerosi sulla strada. Però mi scusi, mi corregga se sbaglio, Iari, io ho l'impressione che questo problema si sentiva meno quando la bicicletta era meno di moda. Oggi, esatto, in realtà la bicicletta, ci sono delle biciclette belle, strafighissime, costano anche poco, onestamente. Una bici per poter andare tranquillamente alla domenica a spasso una pista ciclabile non è una spesa. Una spesa che tutti si possono permettere, sono belle. C'è un rilancio di bicicletta come oggetto di moda e quindi logicamente ci sono più persone che vanno in bicicletta. Assolutamente, c'è stato un incremento anche sulla zona di Roma significativo, cioè qui si parla di crescite nell'ordine del 50-100% della popolazione ciclistica di anno in anno. Questo lei consiglia che io 30 anni fa sono venuto a Roma, non vedevo biciclette in giro, ma era rarissimo. Ci andavano in bicicletta i radical chic che volevano far vedere che loro, ma andavano da via dell'Orso a Corso Vittorio, fine, si sedevano a Piazza Navona e poi tornavano a casa. Oggi le biciclette ce ne sono tantissime, tutti hanno una bicicletta infilata in qualche angolo del condominio, del palazzo, delle scale, quindi il problema va affrontato. Il problema va affrontato oltretutto perché la bicicletta sta diventando un mezzo di trasporto a tutti gli effetti negli spostamenti lavorativi. Tant'è vero che la maggior parte dei ciclisti che poi si rivolgono a infrastrutture come le nostre sono attivisti del nostro movimento, usano la bicicletta ormai come unico mezzo di trasporto e quindi hanno l'esigenza prima di tutto di tutelarsi. I comportamenti che normalmente ci ascrive l'automobilista negativi in realtà poi sono frutto di una stretta necessità di sopravvivenza, perché non avendo delle partenze ai semafori avanzate rispetto alle auto siamo costretti comunque a prendere più strade, a volte a passare con il rosso, e passare sui marciapiedi per l'impossibilità di avere in sicurezza una sede stradale su cui passare. Noi pensiamo che il tutto si potrebbe risolvere in una maniera semplice, e poi la nostra proposta è quella di ridurre mediamente la velocità sulle strade, perché il problema non è soltanto il ciclista. In Italia muoiono la più alta percentuale di pedoni in tutta Europa, quindi c'è un problema proprio di sicurezza sulla strada e il ciclista è uno dei protagonisti che si sta affacciando in maniera più significativa negli ultimi anni su questa strada, e quindi normalmente vanno trovate delle soluzioni che siano... Posso fare un esempio, Iari? Dunque, criticatissimo, il sindaco Marino ha messo dei limiti di velocità sulla strada che dallo Stadio Olimpico di Roma va verso Prati, quindi verso Città di Roma, è 30 km all'ora, che in realtà è un po' pochino. Io, siccome voglio essere ligio, so che mettono gli autovelox, vado a 30 su quella strada, mi prendo, diciamo, in quel 500 metri di strada una trentina di vaffanculi da tutti quelli che mi dicono vecchio, rincoglionito, scemo, così, però mi attengo alla regola. Possibile è così difficile pensare che in città si debba andare piano? Guardi, questo è un problema tipicamente italiano, dico, perché i 30 all'ora non sono una boutade mediatica, è semplicemente una velocità nella quale è riscontrato la sinistrosità non è mortale, quindi qualsiasi utente si affronta a quella velocità, che sia un'altra automobile, che sia un motociclista, che sia un ciclista o un pedone che attraversa le strisce, è facilmente possibile arrestare il mezzo. Quindi è una velocità che per convenzione si utilizza in quanto quella più sicura. Sì, ma la media dei cittadini romani, penso valga anche in città, è 60-70 all'ora. Sì, mi dice in Tonti, dall'altra parte del vetro della regia, che a via Labicana c'è lo stesso limite di 30 km all'ora, sì, che è fantastico, vanno tutti bene, tranquilli, non c'è fretta, ma vanno a 70. Pensi che nei primi due giorni di rilevazione si sono elevate qualcosa come 700 multe in un giorno per eccesso di velocità in quel tratto. Quindi la gente piange, si lamenta. Il problema c'è, è un problema che vede oggi protagonista il ciclista in quanto nuova categoria presente sulle strade. Il sindaco Pisapia nel suo intervento, perché poi mi ricollego a quello. Fermiamoci un attimo, scusi Iari, do un attimo il traffico, così lo conclude bene, se no devo interromperla. Diamo le informazioni del traffico, poi vediamo il commento a quello che ha detto Pisapia. Non siate radicali, non siate estremisti, ma tenete conto, anche voi avete delle regole da osservare. Vediamo cosa ci dice dopo Daniele Iari. Melog, cronache meridiane. Riprendiamo l'annosa rivalità fra automobilisti e ciclisti, però capiamo che se il ciclista serve comunque ad acuire il senso di coscienza nelle nostre strade urbane, ha una sua funzione, visto che i ciclisti ormai ce ne sono un numero stragrande rispetto a quanti ce n'erano soltanto 5-6 anni fa, probabilmente proprio dalla bicicletta potrebbe ripartire un senso di maggiore coscienza per chi guida nelle città. Sentiamo Andrea, buongiorno. Buongiorno, io chiamo da Ferrara, che viene appunto chiamata la città delle biciclette, per cui ha un altissimo numero di utenti per il fatto Beh, anche è che fantastica, ha delle strade sembrano fatte apposta per andare in bicicletta, belle. Esatto. Però purtroppo anche qua da noi c'è da registrare un alto numero di incidenti, soprattutto per il fatto che... Ma è vero che le rubano con i camion a Ferrara? Vengono di notte col camion e prendono tutte le biciclette legate, sì, le portano, esatto, tutte via? E infatti aggiungerei la città delle biciclette sotto rubate, perché tra un po' mi sa che non ce ne saranno più. Comunque vengono con il tir, le scatenano a sì, 50 per volta e le portano via. Purtroppo è un fenomeno talmente diffuso che soprattutto gli studenti universitari, dove usano la bicicletta per recarsi presso l'università, conoscono bene e si sono, diciamo, attrezzati con catene antifurti, ma purtroppo sembra che non ci sia soluzione a questo problema. No, ma vi siete domandati dove le portino poi? Qualcuno mi dice all'estero, le portano ai paesi dell'est? Sì, probabilmente c'è un canale, soprattutto con la Romania, da quello che ho sentito, ma rubano adesso le biciclette, quelle di alta gamma, cioè le persone che, soprattutto magari i pensionati, che si ritrovano alla domenica, sembra quasi che vengano seguiti e rubano biciclette di alta gamma. Per ma questo cui... per capire che il mercato è cambiato, è diversificato. L'Umarell c'ha la bici da 2000 euro, perché a quel punto tutta la... Esatto, quindi... Quindi ma voi, diciamo, dal vostro punto di vista, dato per scontato che è una città perfetta per andare in bicicletta, come risolvete il rapporto con l'automobilista e con, diciamo, con il fluire quotidiano in città? Ecco, io appunto, come ho detto prima, sono praticamente coinvolto a 360 gradi, perché sono motociclista, sono la bicicletta e allo stesso tempo sono autista, per cui io noto dal punto di vista della, quando sono in bicicletta, le persone che continuano a guidare al telefono, e questo fenomeno qua non è assolutamente in calo, anzi noto che non solo i ragazzi giovani adesso stanno al telefono, anche le persone magari di una certa età, e stanno al telefono per lunghissimo tempo, perché non è una telefonata un minuto e poi metti giù. Vabbè, uno li pedala, si fa la telefonata tenendo in mano lo smartphone, naturalmente. Sì, ma gli automobilisti uguale, cioè è questo anche il problema, cioè da ciclista vedo gli automobilisti che stanno in automobile, al telefono. Non me lo spiego, perché ci sono ormai l'auto con il viva voce inserito dentro, non si esatto, capisce. Nonostante ci sia la tecnologia che possa dare una mano, in realtà io vedo tantissime persone che continuano a guidare telefonando. Quindi anche lei è d'accordo con quello che diceva il nostro ospite, che serve un quadro normativo certo. In bicicletta non si telefona, esatto, come si telefona in auto. Fermo, esatto, fermo un attimo. Rita, buongiorno. Buongiorno, grazie per lo spazio. Io abito nel centro storico di Milano, è una zona che è infestata da biciclette. Quindi lei ne parla come una piaga, praticamente infestata. È una piaga dovuta dal fatto che io sono stata investita due volte da due biciclette che uscivo dal portone con il cane, e questa bicicletta in entrambi i casi sfrecciava a una velocità forsennata e mi ha centrato. Una volta mi è andata bene, la seconda volta ho avuto una sofferenza nucale, ho battuto la testa. In entrambi i casi il ciclista non si è nemmeno fermato. Beh, questo è puro teppismo, comunque, non è adesso ascrivibile una categoria. Quotidiane. Allora, a me è andata particolarmente male perché mi ha centrato come un birillo, però io quotidianamente, avendo una vita molto attiva, avendo un cane, uscendo mille volte al giorno, le capita spesso. Vedo. Quindi ha ragione il sindaco Pisapia, a Milano c'è diciamo il problema dell'uso improprio dei marciapiedi da parte. Assolutamente. Allora, il ciclista, forte del fatto che non inquina, cosa fa? Si comporta da pedone quando non lo è. Allora, sfreccia velocità forsennata sui marciapiedi. Il marciapiede, lo dice la parola, è per i pedoni. Marciapiede, non marcia bicicletta. Marciagomma. Per cui sul marciapiede a velocità, e quando c'è gente scampanella, cioè io quando mi sento scampanellare do di testa, ti sfrecciano di fianco, ti arrivano da dietro in silenzio, tu non te ne accorgi, se per caso sei, come mi sono trovata col marito, reduce dall'ospedale, roba del genere, è un nanosecondo che ti pigliano dentro. Scampanellano, si incazzano, attraversa sulle strisce pedonali, passano coi semafori rossi e va in contromano. Cioè al ciclista è concesso tutto. Ora io dico, è pericoloso, infatti io non vado in bicicletta. La città è adeguata all'uso della bicicletta. Fermiamoci un attimo, è chiarissimo il suo punto di vista, però vorrei da Daniele Iari, che diciamo ha fondato un ateneo del ciclismo urbano, l'ACU, che mi dica le tre norme che sarebbero indispensabili, che in parte potrebbero risolvere un po' questa che è diventata ormai una guerra ideologica. Lei sente l'odio che traspare in questa signora per i ciclisti, ma è anche motivato. Allora, guardi, l'odio della signora, brevemente, naturalmente, ripeto, è un problema normativo. Se il ciclista sta sul marciapiede, il primo punto è perché non ha una sede stradale adeguata, quindi prima di tutto la norma ci impone di stare al margine della strada, e il margine della strada dovrebbe a questo punto essere reso adeguato al passaggio delle biciclette, quindi dove ci sono le rotaie dei tram è un po' difficile, ecco, esatto. Perché penso aver capito il problema della zona dove sta la signora. Esattamente, quindi lì bisognerebbe cercare di capire come trovare delle infrastrutture che rendano possibile il passaggio sia per mezzi pubblici che per auto che per ciclisti. Il secondo punto è sicuramente la moderazione del traffico. Molto spesso, lasciando il caso specifico della singola zona che prendiamo lì, poi io le parlo di casi un po' più ampi nazionali, il problema è di velocità, nel senso molto spesso il ciclista va sul marciapiede per paura di affrontare la sede stradale troppo pericolosa per le velocità superiori ai limiti già attuali dei 50, quindi noi già rispettare il limite attuale sarebbe una grande conquista, fermo restando che è un limite troppo elevato nei centri urbani. E il discorso della targa, ultima domanda, la targa... Ma io dico, la targa non serve a niente, è dimostrato che un sistema sanzionatorio, le auto in Italia hanno le targhe, siamo il paese con il più alto incidente in Europa, gli automobilisti investono pedoni e scappano, ogni giorno si legge del famigerato pirata della strada. Quindi... almeno il ciclista quando scappa qualcuno può rintracciarlo. Ci fermiamo, per oggi è finita, ma ci torniamo sulle biciclette, è un bel tema, alla prossima.